Ho fatto un sacco di esperienze amorose, sono state tante occasioni clamorose, i ben pensanti si potrebbero stupire, le male lingue gioire. Ho dato tanto, poco in quantità di cose, il sentimento mi libera, mi guarisce, l'occasione al punto giusto mi sfinisce. E non mi basta più, e non mi basta più vivere. E non mi basta più, e non mi basta più.